My name is Khaled. Mi chiamo Khaled, sono un infermiere. Lavoro come volontario per la Palestinian Red Crescent Society e vivo a Gaza nella città di Rafah. Siamo al sesto giorno di guerra e in generale penso che sia un crimine umanitario quello che sta accadendo. Sono state uccise circa 1200 persone. Migliaia di edifici sono stati attaccati e resi al suolo. E oltre a queste 1200 persone che sono morte, abbiamo più di 6000 feriti e la capienza degli ospedali non è sufficiente. Il problema principale ora è che le persone hanno accesso limitato al cibo, all'acqua e all'elettricità. L'accesso a qualsiasi cosa è limitato al momento e questo sta mettendo le persone a dura prova. È una situazione che si aggiunge all'elevato numero di morti. Certo, e in questa situazione qual è la situazione degli ospedali e delle strutture mediche? Uno dei problemi principali ora è il taglio dell'elettricità. Ieri la centrale energetica principale di Gaza sarà spenta a causa della carenza di carburante. Gli ospedali al momento stanno funzionando a bassa potenza. Gli ospedali di Gaza sono tutti pieni. Qui abbiamo 1100 pazienti con insufficienza renale che necessitano dialisi, di cui circa 40 bambini. Il ministro della salute ha dichiarato che a causa della carenza di carburanti in questi giorni non sarà possibile fare niente per evitare il taglio dell'elettricità anche agli ospedali. Questo avrà ripercussioni molto gravi sulle persone che abbiamo in cura. Stiamo parlando di pazienti in dialisi, neonati in prematuri, pazienti in terapia intensiva che rischiano di morire perché molti degli ospedali saranno fuori servizio. Centri sanitari stanno venendo chiusi perché sono stati bombardati, quindi alcuni sono stati evacuati e chiusi. Anche una delle macchine mediche della Palestinian Red Crescent Society è stata attaccata e 3 dei paramedici sono stati uccisi. Se il carburante finisce, anche l'ambulanza della Red Crescent Society, che è un'organizzazione internazionale, non sarà più in grado di muoversi. Non sarà possibile lasciare il centro e aiutare i feriti che si trovano nelle aree che verranno bombardate. Questo è un altro problema, perché la legge internazionale ha dato il permesso alle organizzazioni internazionali come Palestinian Red Crescent Society, il permesso di muoversi liberamente per salvare i feriti, ma senza carburante non sarà più possibile. Quindi la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente e, stando alle dichiarazioni del ministro della salute, questo significa che l'intero sistema sanitario collasserà. Questo è un crimine umanitario. Ma anche al di là della questione del carburante, anche il personale dell'ospedale è stremato da 6 giorni di lavoro continuativo per curare i feriti e i pazienti. E non so per quale ancora saranno in grado di continuare a prendersi cura dei feriti. Qualcuno dovrebbe intervenire. La comunità internazionale dovrebbe intervenire in una situazione come questa. Ecco, a proposito di comunità internazionale, ti volevo anche chiedere qual è il ruolo delle associazioni internazionali presenti sul territorio in questa situazione e di che cosa c'è bisogno in questo momento. Parlo di ospedali, terapia intensiva, dipartimenti di emergenza e pronto soccorso. Penso che in questi giorni più dell'80-90% delle forniture mediche e anestetiche siano stati usati per far fronte alla situazione. Quindi le persone a Gaza non soffriranno solo per la carenza di cibo e acqua, ma anche per la mancanza di forniture mediche. Spero che le organizzazioni internazionali continuino ad aiutare il più possibile, ma non so in che misura lo faranno. Gaza non ha mai vissuto una situazione come questa. L'intera striscia di Gaza sta andando incontro al collasso. Molti degli edifici bombardati sono pieni di persone al momento dell'attacco e per questo motivo il numero di morti è molto, troppo alto. Anche i frigoriferi delle camere mortuarie non sono abbastanza capienti per far fronte al numero di morti quotidiano e penso che ci siano molte persone intrappolate sotto le macerie. Anche le persone che lavorano al Dipartimento della Difesa Civile dopo aver lavorato 6 giorni continuativi sono allo stremo e c'è carenza di macchinari adeguati a rimuovere le macerie degli edifici bombardati e fare valutazioni del rischio. È come se Gaza fosse stata colpita da un terremoto. Yeah, it's like an earthquake happened in Gaza.